Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Subito i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo con due dati, brutto dirlo, sembra quasi di essere cerchio bottisti, ma sono due dati in chiaroscuro. Da un lato infatti migliorano le stime sulla crescita economica italiana l'anno prossimo, più 1,1% dice il Centro Studi di Confindustria, e migliorano anche leggermente le stime negative, per carità, su come chiuderemo quest'anno, e questa è la buona notizia. La cattiva notizia è che la disoccupazione continua a segnare nuovi record, tra l'altro l'Istat ha dovuto rivedere in maniera peggiorativa il dato sul mese di ottobre, all'8,2% la disoccupazione, non più all'8%, direte voi un decimale poca cosa, sì, però se si vanno a vedere i posti persi, ahimè, il dato è il peggiore da quando esiste la serie storica, quindi dal 1992, sia da variazione anno su anno che mese su mese. Ne parleremo perché si sono creati praticamente mezzo milione di posti di lavoro, si sono persi, scusatemi, mezzo milione di posti di lavoro, e il dato è appunto 508.000 occupati in meno nel terzo trimestre del 2008 e 120.000 in meno solo rispetto al secondo trimestre, quindi il dato trimestre su trimestre, non anno su anno. Ancora parleremo di borse, come sempre in questo momento i mercati sono tutti deboli, soprattutto Parigi meno 1%, Milano perde lo 0,90%, Francoforte lo 0,80%, Londra è la peggiore, ne parleremo, meno 1,5% in questo momento, l'America meno 0,8%. La notizia però sul mercato la fa l'euro, che è sceso a quota 1,43,43 nei confronti del dollaro. Tra i titoli, A2A meno 3%, Monte dei Paschi meno 2 come Banco Popolare, meno 1,90 Mediolanum, meno 1,80 Mediobanca, meno 1,6 sia Exor che Campari, che Unicredito. Mondadori più 0,90, Terna più 0,80%, Luxottica mezzo punto percentuale. Parleremo anche del rapporto BNL Einaudi sul risparmio, non arrivano solo notizie negative, migliora il numero di italiani che non, diciamo, la cui situazione finanziaria viene definita sufficientemente buona, soddisfacente, aumenta anche però il numero di italiani che deve ricorrere a prestiti per far fronte alle spese mensili, quindi la divaricazione sembrerebbe continuare. E poi nella seconda ora del programma avremo ospite l'amministratore delegato del gruppo Coin, annunciata e formalizzata oggi infatti l'operazione con cui Coin si compra la UPIM e quindi 135 negozi più altri 200 in franchising che vanno sotto il marchio UPIM. 349-238-6666 per i vostri sms e le notizie in breve. Tassi fermi in America, lo sapete già, l'avete letto oggi dai giornali. Qualche dato è arrivato oggi dall'America, riguarda il superindice economico, è balzato dello 0,9%, mentre anche le richieste di sussidio alla disoccupazione in America sono salite a 480.000, le previsioni erano di 465.000. Pesante il calo invece in apertura a Wall Street di Citigroup, perdeva quasi il 9%. L'aumento di capitale di Citigroup ha raccolto circa 17 miliardi di dollari con quasi 5 miliardi e mezzo di azioni vendute. Dall'America all'Europa, la Grecia, continuano le difficoltà greche, soprattutto continua il pessimismo del mercato. Il differenziale tra quanto rende un'obbligazione, un titolo di Stato greco e un titolo di Stato tedesco, si usa sempre la Germania come riferimento, come benchmark, dice chi ha studiato, beh, è aumentata ai massimi livelli, praticamente a 260 centesimi. Per la prima volta dal 20 aprile rende molto di più prestare soldi allo Stato greco che allo Stato tedesco, questo punto per e come conseguenza anche del declassamento che ieri l'agenzia di rating Standard & Poor's ha operato al debito della Grecia. Il voto è stato portato a BB+. Siamo in Italia, la legge finanziaria approvata, la manovra torna al Senato, l'abbiamo detto più volte, manovra da 9 miliardi, era entrata alla Camera, valeva 3 miliardi e 8, poi vari emendamenti l'hanno portata a 9 miliardi, diverse le reazioni della classe politica, chiaramente molto critica l'opposizione e in particolar modo l'Italia dei Valori, ma l'altra novità oggi per quello che riguarda la politica economica ha a che fare con lo scudo fiscale. Confermato infatti quello che già ieri avevamo annunciato, vi sarà una nuova proroga, o meglio un secondo scudo fiscale, finirà a marzo, a fine di aprile, scusatemi, e si pagherà il 6% per chi scuda i capitali fino a febbraio, e poi invece da marzo a aprile si pagherà il 7%. E via libera anche del Consiglio dei Ministri la class action in vigore da gennaio. Attenzione, si era creata un po' di confusione. La class action vuol dire, insomma, le cause collettive, le cause appunto che vengono fatte da gruppi di risparmiatori, di clienti, di quello che volete voi. Si pensava alla class action quella che doveva essere approvata, poi fu fatta slittare già nel 2008 e poi anche nel 2009. Questa riguarda solo la pubblica amministrazione e quindi è attuativo dalla riforma Brunetta in materia di azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. In particolare i singoli o le associazioni potranno presentare ricorso nel caso di inefficienza di un servizio. La vicenda Sky o Pay TV e la vicenda degli spot, c'era stata molta polemica. La riduzione del limite di affollamento degli spot, cioè quanta pubblicità ci può essere, fatto 100 quello che trasmetti, per la Pay TV scenderà dal 18 al 12%. Sky aveva molto protestato perché lo riteneva un danno economico, dal 18 al 12% nell'arco di 3 anni, non quindi in tempo brusco. Dovrebbe scendere al 16% nel 2010 e poi al 14% nel 2011 e poi toccare il 12% nel 2012. Allora, io cito adesso un dato che vorrei non venisse preso in maniera polemica, anche perché la fonte è la Commissione d'Indagine sull'Esclusione Sociale, CIES, che è un organismo che fa capo al Ministero del Welfare. Oggi ha presentato il rapporto su quanto è stato l'utilizzo della social card, ricorderete la carta che alcuni hanno chiamato la carta per i poveri, ma insomma della social card lanciata dal governo, dell'abolizione dell'ICI, del bonus straordinario, del bonus elettrico, queste misure che varate per combattere la povertà. Allora, secondo quello che dice l'organismo che fa capo al Ministero del Welfare, quindi lo stesso governo, questi interventi hanno praticamente ridotto dello 0,4% le famiglie povere, dal 4,2% al 3,8%. I vantaggi sono stati per 91.000 famiglie su 1 milione. Ripeto, non è un giudizio politico, non mi interessa se vi piacesse o no la social card o l'ICI e quant'altro. L'impatto è stato basso, bassissimo, quasi nullo, possiamo dirlo, 90.000 famiglie su 1 milione. Riprendiamo con le headlines. Ed è lo stesso ministero, così la chiudiamo, a dire che l'impatto è stato così basso per via dell'esiguità delle risorse messe a disposizione, 192 milioni di euro per le famiglie assolutamente povere a fronte di un'esigenza di 3 miliardi 860 milioni. Allora è brutto essere demagogici, ma stanno rientrando 110 miliardi di euro con lo scudo fiscale, non si sono trovati e si sono trovati 190 milioni appena per le famiglie che non ce la fanno arrivare veramente a fine mese. Forse qualcosa non torna. E restiamo sul tema, perché appunto oggi il rapporto della Fondazione Einaudi assieme alla banca BNL ha notato che da un lato migliora la situazione di chi dice non ce la faccio, cioè dal 69% dell'anno scorso di italiani che dichiaravano non riesco a mettere via soldi si è scesi al 53%. Purtroppo il 18% delle famiglie deve ricorrere a prestiti per fronteggiare le spese correnti, le spese mensili, quindi anche qui quello che emerge, ma ne parleremo più avanti con il presidente della BNL Luigi Abete, quello che sembra emergere è una divaricazione, migliora una fetta consistente ma peggiora un'altra. Questo è un po' il problema che si sta creando a livello sociale. Va bene, partiamo, va bene, si fa per dire, partiamo col primo tema ed è appunto il dato sul PIL italiano, rapporto del Centro Studi Confindustria, rapporto sugli scenari economici, meno 4,7% nel 2009, un po' meglio delle tese di qualche mese fa, e soprattutto più 1,1% nel 2010, meglio decisamente delle stime di qualche mese fa. Il che porta a dire alla stessa Confindustria, nel suo rapporto del Centro Studi, la ripresa è avviata e non deraglierà. Allora, se, secondo il Centro Studi Confindustria, viene calcolato anche il tempo che ci metterà l'Italia per tornare, diciamo, ai livelli pre-crisi quanto a PIL. E poi commenti anche sulla disoccupazione, ahimè al 9% nel 2011. La Confindustria stima che siano stati persi 470.000 posti di lavoro e 195.000 a rischio. Nel frattempo, come ricordavamo, è arrivata anche l'Istat, dice che ad ottobre la disoccupazione era un po' più alta di quanto non avesse stimato, all'8,2%, il dato peggiore dall'aprile del 2004. I disoccupati quindi a ottobre sono stati 2.039.000. Si sono persi nel terzo trimestre dell'anno 508.000 occupati rispetto al terzo trimestre 2008, mentre rispetto al secondo trimestre 2009, anche qui la botta non è da poco, 120.000 occupati in meno, il dato è il peggiore da quando esiste la serie storica, dal 1992. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. La domanda sembra facile, spero che lo sia. Come si tiene assieme una revisione vostra sulla stima su quanto cresceremo nel 2010 con l'aumento della disoccupazione e l'Istat che ha dovuto rivedere anche verso l'alto la stima sulla disoccupazione? Si tiene benissimo insieme per due ragioni. La prima è che il mercato del lavoro reagisce sempre con ritardo alle svolte del ciclo congiunturale, quindi stiamo spando adesso le conseguenze della recessione cominciata nel secondo trimestre del 2008 e che è finita nel terzo trimestre del 2009, e di conseguenza abbiamo un'onda lunga di questa recessione. E in secondo luogo si spiega il fatto che le previsioni che abbiamo diffuso oggi sono di un aumento del PIL dell'1,1% nel 2010 e dell'1,3% nel 2011, contro una caduta che, se guardiamo i dati mediani, è stata di circa 5,9% tra il 2008 e il 2009 del PIL, quindi è un recupero parziale, e questo fa sì che inevitabilmente l'aggiustamento del mercato del lavoro prosegua, tant'è vero che noi disegniamo un aumento della disoccupazione sia l'anno prossimo sia l'anno successivo, con un picco a fine 2011 del 9,1%. Si può discutere se sarà, diciamo, così alto o più basso o ancora più alto, a seconda, diciamo, di quelle che saranno le dinamiche delle forze di lavoro, le dinamiche anche della cassa integrazione, nel senso che noi pensiamo che la cassa integrazione abbia raggiunto un picco e tenda a ridursi, però questa riduzione avverrà attraverso il riassorbimento delle persone in azienda, o viceversa potrebbe avvenire attraverso l'espulsione di queste persone. Stavi concludendo, cioè, il dato sulla disoccupazione e anche potrebbe essere migliore se, diciamo, una quota maggiore di persone fosse reintegrata in azienda, certo, o viceversa peggiore se, come sospettiamo, non il 70% delle persone sì, che sono in cassa integrazione verranno reintegrate. Allora, e questo è un tasto molto delicato, attenzione, perché quando si va a vedere la cassa integrazione è chiaro che non basta dire è diminuito il ricorso alla cassa integrazione, delle volte diminuisce perché tu le persone non le hai neanche più in cassa integrazione, non le hai proprio più, altre volte invece diminuisce perché quella persona è rientrata al lavoro. Domanda, a questo punto, con questi tassi di crescita, parlo del PIL, quanti anni ci mettiamo a tornare ai livelli di PIL pre-crisi? 4 anni in Italia. Cioè 2013? Sì, esattamente. E questo già dà l'idea dell'intensità della botta. Ancora, sui posti di lavoro, vedete 470.000 posti e altri 195.000 a rischio. 9% nel 2011 non è una bella notizia, però insomma questa è la vostra stima. Che cosa si potrebbe fare, Luca Polazzi? Perché abbiamo letto il dato prima fornito dal Ministero, quindi non c'è nessuna polemica, dal Commissione di Indagine sull'Esclusione Sociale, CIES, fa capo al Ministero del Welfare, che la social card e anche lì ci sono tutti i bonus elettrico, queste formule hanno avuto impatto bassissimo, 91.000 famiglie su 1 milione quelle interessate, povere, anzi vengono definite assolutamente povere, e con un'esigenza di 3 miliardi e 8 stimata sono arrivati 190 milioni. E su questo, cioè, voi individuate anche un percorso che debba portare a un aumento della domanda interna, un mantenimento di quello che resta del potere d'acquisto? Ma francamente qualsiasi misura che vada in questa direzione deve trovare una copertura nei conti pubblici. Rendiamoci conto che per avere un qualche significativo impatto dovrebbe essere molto consistente, e non si vede come con un debito pubblico che cresce e continuerà a crescere nei prossimi anni si possa facilmente trovare le risorse per fare questo. Quindi diciamo il nostro dubbio fondamentalmente non è tanto il fatto che non pensiamo siano utili misure di sostegno dei consumi o della domanda interna, pensiamo che queste misure debbano essere inquadrate all'interno di un progetto complessivo di riallocazione delle risorse pubbliche e quindi di riduzione della pressione fiscale a fronte di risparmi nella spesa primaria corrente, non nei tagli di investimento, perché questo decurterebbe ulteriormente il nostro tasso di crescita potenziale e quindi alla fine sarebbe un gioco nemmeno a somma zero ma a somma negativo. Ultima domanda al direttore del Centro di Confindustria, già vi accennavi il deficit e il debito. Voi avete dato una stima che anche qui va capita, cioè le stime che vengono fornite sono sempre in assenza di manovra correttiva, cioè si dice il debito diventerà questo se non si interviene con la legge finanziaria. Debito al 118% nel 2011, mentre il deficit, se ho ben capito, resterà al 5%? Esattamente, questa è la previsione che facciamo per il 2011, in assenza, come dicevi tu poco fa, di interventi correttivi. Ora nella relazione, nell'ultimo documento ufficiale del governo, che è il programma di stabilità, si parla di un intervento sul 2011 dello 0,4% del PIL e un successivo intervento di un altro 0,8 per il 2012. Noi non abbiamo tenuto conto perché in realtà ancora non è chiaro come sarà disegnato questo intervento e quindi aspettiamo di vedere misure concrete. Allora io non voglio fare, diciamo, dell'ottimismo di maniera o di facciata, non mi appartiene, però noto solo che pur all'interno di una situazione complicatissima, voglio dire, dati sulla disoccupazione che non si vedevano da quando inizia la serie storica, dal 92, fanno capire a tutti la botta che è arrivata in questi 2 anni, però faccio notare che rispetto a qualche mese fa le stime su come crescerà l'Italia nel 2010 sono migliorate non di poco. Io ricordo all'inizio di quest'anno si ragionava, se non ricordo male, Luca, fra un 0,3-0,4%, cioè sembrava un abbozzo di ripresa, quasi una stagnazione. Ma per quanto ci riguarda non è tanto così, perché noi comunque avevamo già a settembre indicato uno 0,8, adesso andiamo all'1,1. Simbolicamente sembra molto di più perché superiamo la soglia dell'1, ma non c'è grandissima differenza. Quello che è importante è che consideriamo molto plausibile, molto probabile l'idea di una ripresa che si consolida nell'anno successivo con una lieve anche accelerazione. Però ricordiamoci che la caduta è stata molto forte e questo ha trascinato giù le entrate pubbliche, obbliga a spese di sostegno al reddito attraverso appunto le erogazioni di cassa integrazione, i sussidi di disoccupazione maggiori, e finché non ritorni al livello di attività precedente continuerai ad avere questo buco. Anzi, il problema vero è che la finanza pubblica è disegnata per avere incrementi di entrate nel corso del tempo e difficilmente tornerai a quel profilo di crescita che, che avevi delineato in passato e quindi sei costretto in un certo qual modo a intervenire, non ti basta tornare ai livelli precedenti, dovresti tornare ai livelli del trend precedente, cosa che francamente ci sembra molto difficile. Grazie, grazie, buon Natale, buon anno, come facciamo tutti gli ospiti in questi giorni, a Luca Palazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Grazie anche a voi. E alla luce di questi dati, ripeto, in miglioramento il PIL, non bene l'occupazione, addirittura il Centro Studi Confindustria dice che nel 2011 sarà l'anno peggiore per gli occupati. Questo dà anche l'idea dell'effetto onda lunga, come si chiama in gergo. La crisi finanziaria si è giocata, bruciata e risolta nell'arco di 9 mesi, no? Settembre 2008, giugno 2009 era già fuori la finanza della crisi, e invece quello che resta a noi come simpatico regalino natalizio sono questi cassi integrati disoccupati per i prossimi anni. Dicevo, alla luce di questo, la Presidente Confindustria Marcegaglia ha chiesto oggi, commentando questi dati, di pensare a progettare in modo serio il futuro. Basta con le politiche, gli interventi di emergenza. Sentiamola al microfono della nostra Chiara Grandis. Abbiamo gestito l'emergenza in questi 14 mesi, adesso abbiamo bisogno proprio di progettare il futuro. Il Paese è da tempo che non pensa più al futuro, il che vuol dire appunto le riforme di cui abbiamo parlato prima, una grande concentrazione sul tema della ricerca, dell'innovazione, del capitale umano e soprattutto questo tema dell'efficienza dello Stato, che è un tema fondamentale che dobbiamo affrontare tutti insieme. Noi l'idea è proprio quella di fare una sorta di Italia 2015, ovviamente partendo dalle esigenze, dalle sfide per le imprese, ma poi cercando un po' di avere un po' una visione a medio termine anche su quello che deve fare il Paese per riuscire a ritornare a crescere, a non avere i livelli di crescita di cui abbiamo parlato oggi. Ma vogliamo un po' partire noi per dire, cioè il Paese deve ricominciare a pensare al futuro, e quindi noi già a gennaio avremo una prima idea più precisa e penso che poi lo termineremo dopo un paio di mesi, insomma verso fine marzo, e su questo chiameremo un po' tutti a confrontarsi, insomma vogliamo veramente provare a dare creare un po' una discontinuità. Questa è l'idea, cioè di uscire dall'emergenza, avere un progetto per il futuro, per almeno i prossimi 5 anni. La borsa adesso, cambiamo radicalmente tema, non c'è molto altro sul fronte della delle notizie macroeconomiche italiane. Ripeto, poi ci occuperemo del rapporto BNL Naudi sui risparmiatori italiani e poi ancora parleremo dell'operazione Coin su UPIM. Praticamente Coin si è comprata UPIM dimezzando quello che era il debito di UPIM, ma poi ascolteremo le parole da diretti interessati. 349-238-6666 per gli sms. La borsa ha chiuso con un calo di quasi un punto percentuale, un punto Parigi, l'1,7 Londra, pesante Londra oggi, l'America meno 0,90. Tra i titoli peggiori, tra quelli diciamo a maggiore capitalizzazione, A2A un po' di realizzi, meno 2,7. Le banche, Monte dei Paschi meno 2, il Banco Popolare meno 2, Mediolanum meno 2, Unicredito meno 1,80, Intesa meno 1,70 e la Popolare Milano meno 1%, Exor meno 2,4. L'euro conferma la sua debolezza, è sceso a 1,43 sul dollaro. minuti, parliamo di borsa adesso e poi di risparmio e risparmiatori. Dunque, alcuni sms al 349-238-6666 sul tema con cui abbiamo aperto. Stime di Confindustria sul PIL migliore nel 2010, l'occupazione però che continua ad andare male, e la Confindustria prevede che l'anno che continuerà a crescere anche nel 2011 la disoccupazione. Dato di oggi dell'Istat, record storico come nuovo numero, come riduzione di occupati, purtroppo 500.000 in un anno di persone, di riduzione dell'occupazione. E poi commento sull'effetto social card, ripeto, la fonte del Ministero del Welfare, 92.000 famiglie su 1 milione di bisognosi hanno avuto qualche beneficio della social card, 190 milioni messi a disposizione contro 3 miliardi e 8 necessari. Allora, alcuni dicono Ecco, attaccate sempre il governo sulla social card, altri dicono difendete sempre il governo perché fate ottimismo sul futuro dell'economia, va bene così la borsa. Meno 0,90%, almeno qui non la buttiamo in politica, per ora, meno 0,90%, meno 1,1 Parigi, meno 1,6 Londra, meno 1% anche Francoforte. Debole oggi la giornata quindi su tutti i mercati, con una bruttissima apertura di Citigroup a Wall Street. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Brutti dati americani, soprattutto i sussidi alla disoccupazione, anche lì aumentati molto più delle attese. Male Citigroup, quanto perde Citigroup adesso? Sta perdendo poco meno del 7%. No. Ma questo per l'aumento di capitale? Sì, beh, più che altro discussione era che ci si aspettava, la discussione del mercato era sulle sorti della quota in mano al Tesoro, ci si aspettava decisione del Tesoro appunto di vendere la sua partecipazione del 34%, il Tesoro ha deciso di non vendere dopo tre giorni fa aveva annunciato questa intenzione, soprattutto ha raccolto un tiepido interesse da parte del mercato per acquistare le quote del gruppo. Questo ha portato certamente una certa turbolenza un po' su tutto il settore bancario, quindi non solo su Citigroup, tant'è vero che ne hanno risentito un po' tutte le banche europee. Oggi il settore dei bancari è stato in Europa il peggiore, con l'indice di riferimento, il DJ Stocks delle banche, che ha perso circa 2,5 punti. Bene invece, no, sì, io non vorrei che avvicinandosi anche a Natale si iniziassero a chiudere le posizioni, quindi ogni scusa è buona poi per andare a realizzare, visto che la borsa ce lo chiedete ogni volta, ogni tanto ve lo diamo il dato da inizio anno, Piazza Affari praticamente quanto a incremento. Siamo, senza la giornata di oggi, siamo sostanzialmente a un più 17% Milano e un più 19% l'America, e un più 40% il Nasdaq, più 20% Londra, da inizio anno, non dai minimi di marzo, da inizio anno. Comunque andiamo avanti, Andrea, A2A realizzi, visto che aveva corso molto, meno 2,7, Exor meno 2,4, le banche appunto, Monte dei Paschi, Banco Popolare meno 2%, Mediolanum pure, Unicredit meno 1,80, Intesa meno 1,70, Mediobanca 1,5 punti di calo, Popolare Milano 1 punto di calo, anche Eni ed Enel hanno perso 1 punto percentuale. Chi si è salvato? Luxottica più 1,3, Terna più 0,70, Mondadori più 0,60, Tenaris più 0,4, Buzzi più 0,3%. Luxottica si avvantaggia di un euro debole che va verso quota 1,42. Adesso se continua così, mi dispiace perché deve andare in America o nell'area dollaro in vacanza. Andiamo avanti invece con i migliori e peggiori in assoluto. Come hai reagito Coin, visto che dopo ne parleremo con l'amministratore delegato all'acquisto di UPIM? Beh, Coin ha vissuto una giornata molto positiva, ha chiuso in rialzo di oltre il 4%, più 4,2% oggi, il titolo ha superato i 4,6 euro per azione, chiaramente la notizia, quella che tu ricordavi, finalmente è arrivato l'accordo per l'integrazione tra Coin e UPIM. Allora, risponda anche a chi dice, vabbè, poi risponderò a chi contesta i dati sullo scudo fiscale. Andiamo avanti con i titoli. EMS è migliore più 5,4, Banca Popolare di Spoleto più 3,9%. È preda di qualcuno? Per quanto riguarda EMS c'è Spoleto. Comunque anche EMS se vuoi, certo. Sì, per quanto riguarda EMS c'è un'attenzione particolare dovuta all'accordo per la rinegoziazione del debito che dovrebbe essere raggiunta prima di Natale e su cui advisor e legali sono al lavoro da tempo e nei giorni scorsi si è detto che ormai il punto d'arrivo è abbastanza vicino. Per quanto riguarda la Banca Popolare di Spoleto, difficile. No, è che in una giornata come questa in cui le banche perdono, magari c'era qualche movimento. Comunque, sì, su un istituto popolare è difficile solitamente che le mire di qualche. Lì c'è il voto capitario, per cui è voi. Esatto. Banca Italease meno 5,70. Anche oggi un'altra bella giornata per Italease, 79 centesimi di euro, Stefanel meno 4%, BS meno 4%, Roma Calcio meno 6,5%. Grazie Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. Grazie Andrea. Allora, per quello che riguarda gli sms, no, una precisazione, abbiamo fatto un raffronto così, un po' demagogico, volete dire questo, tra solo le sole 92.000 famiglie su un milione, famiglie in condizioni di estrema povertà, che hanno potuto avere qualche vantaggio dalla social card, e abbiamo detto nel frattempo è un paese in cui rientrano almeno 110 miliardi dello scudo fiscale. Non rientrano per il governo, lo sappiamo benissimo, dico chi scrive, un private banker che immagino abbia avuto dei bei benefici da questo rientro. Il governo intascherà 5 miliardi e mezzo sto giro, poi visto che l'aliquota fino a febbraio è 6% e poi 7% da marzo a aprile, arriverà qualcos'altro. Si faceva solo notare che da un lato c'è una indisponibilità a trovare i fondi per le famiglie bisognose, all'altro ci sono famiglie italiane che hanno fatto rimpatriare 110 miliardi di euro. Se vi sembra poca cosa, minuti, di nuovo con Sebastiano Barisoni, parliamo e restiamo in tema di risparmio, perché come ogni anno la Fondazione Naudi assieme al gruppo BNL BNP Paribas pubblica il rapporto sul risparmio e sui risparmiatori. Quest'anno si chiama risparmio, un risparmiatore consapevole, e insomma sono un po' di giorni che escono vari dati di carattere statistico ma anche di carattere un po' più qualitativo, penso al Censis della settimana scorsa, che vanno a cercare di capire come si muove il risparmiatore, il cittadino italiano. Ma insomma, la cosa più interessante a mio avviso è che la quota degli italiani nel rapporto di quest'anno che ritiene di avere un reddito più che sufficiente o sufficiente è salita dal 44 al 57%, quindi è aumentata la quota degli italiani che ritiene di avere un reddito sufficiente, questo nell'anno 2009, insomma, anno pesantissimo. È sorpreso, Presidente Luigi Abete, Presidente della BNL? Buonasera. Buonasera, no, io non sono sorpreso, perché è evidente che nel momento della crisi economica i sistemi di ammortizzatori sociali hanno in qualche misura stabilizzato il reddito, mentre la recessione ha aumentato la pressione competitiva sui beni e sui servizi e quindi ha ridotto i costi. Quindi se rimangono stabili i ricavi e si riducono i costi, è chiaro che il reddito disponibile in termini di qualità della vita si consolida e aumenta un po'. Peraltro questo dato è coerente con il numero delle persone che risparmiano, che sale dal 31 al 47%, che vuol dire che questo reddito disponibile derivato da questa stabilità dei redditi e dalla compressione dei costi si è trasformato in risparmio, consolidando un'abitudine italiana, cioè dell'elevata propensione al risparmio dei cittadini italiani. Quello che preoccupa di questa rapporto è la fotografia del dopodomani, cioè di quelle che sono le prospettive. Le persone che si dichiarano serenamente tranquille nell'oggi si dichiarano molto perplesse e molto preoccupate per la loro situazione a 5 anni data, evidentemente perché vedono una situazione economica internazionale complessa, vedono una difficoltà del paese di darsi una strategia per uscire dalla crisi internazionale con una visione, con degli obiettivi di medio e lungo termine condivisi, vedono quindi una incertezza che si riflette sulla loro preoccupazione di aspettativa di qualità della vita nel medio e lungo termine. Quindi, per dirla con una battuta, un bicchiere mezzo pieno per l'oggi, ma un bicchiere che è più che mezzo vuoto per il domani e il dopodomani, vista questa preoccupazione prospettica crescente. Ecco, Presidente, ci potrebbe essere anche un'altra lettura, nel senso che chiaramente il dato sugli italiani che ritengono di avere un reddito più che sufficiente o sufficiente è alto, e soprattutto è in miglioramento del 13% rispetto all'anno scorso, che vuol dire, come ricordava lei, che l'effetto della crisi sui prezzi, l'inflazione a zero per molti mesi, e per chi ha tenuto il lavoro, il mantenimento, anzi l'aumento del potere d'acquisto, hanno giocato un certo ruolo. Però c'è anche una quota consistente di italiani, che voi avete scoperto, il 17,5%, che ha dovuto fare ricorso a prestiti di vario genere per le spese correnti. Allora, e tra l'altro solo il 38% afferma di non aver avuto alcuna difficoltà a far fronte ai pagamenti, cioè 6 su 10 hanno avuto problemi a far fronte ai pagamenti. Non si sta forse spaccando in due? Cioè, da un lato aumenta la quota di quelli che stanno abbastanza bene, ma dall'altro aumenta anche ed è alta la quota di chi deve ricorrere a prestiti e ha comunque difficoltà a far fronte ai pagamenti mensili? Esattamente quello che è accaduto negli anni scorsi e sta accadendo sempre di più, la dualizzazione del ceto medio italiano, che si spacca in due componenti: una parte maggioritaria che stabilizza il proprio reddito e, utilizzando nei momenti di recessione anche quote di capitale risparmiato, riesce a mantenere un livello di vita adeguato; una parte minoritaria ma comunque consistente, che quindi interessa un 20-30-35% della popolazione, la quale invece ha una situazione di difficoltà crescente nel mantenere un livello di qualità della vita adeguato e quindi è risucchiata in qualche misura verso il basso. L'analisi puntuale sul risparmiatore rappresenta un indicatore della correttezza di questa situazione sociologica ed economica generale del paese. I primi stanno dignitosamente bene e sono la maggioranza, i secondi stanno purtroppo sempre peggio e sono una minoranza consistente, e quindi è a loro che vanno dedicate attenzioni di politica economica e politica sociale rinnovate per rispondere a questa emergenza crescente che attiene questa fascia della popolazione italiana. Sì, sarebbe interessante, chiaro non riusciamo a farlo, capire se come immagino quel percentuale che dal 44 al 57%, quindi che è aumentata e dice di avere un reddito più che sufficiente, è lavoro dipendente, dico nel settore privato e anche in quello pubblico, e se la percentuale che invece quasi 20 su 10 non riescono, devono far fronte a prestiti per arrivare a pagare le spese, comunque 4 su 10 stanno male, 6 su 10 stanno messi male sul fronte delle spese, beh, se lì ci siano molte partite IVA, lavoratori autonomi, artigiani, cioè la fascia più colpita, diciamo, dalla contrazione dei consumi e delle esportazioni, per cui tutto il lavoro autonomo, ma non quello ricco e privilegiato come delle volte si immagina. Io non penso che la divisione sia così netta, io penso che le famiglie e coloro i quali hanno una pluralità di redditi di tipo diverso, quindi redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo, talvolta non fiscalmente trasparenti, e hanno anche il contributo dei redditi da capitale, riescono a entrare nella prima categoria e sono la maggioranza. Coloro i quali hanno solo reddito da lavoro dipendente medio-basso sono gran parte della seconda categoria, quindi non penso che l'eccezione va fatta: reddito da lavoro dipendente sta bene, reddito da lavoro autonomo sta male. Chi ha più redditi di natura diversa, e sono però molti di più di quelli che noi immaginiamo, perché non sono solo quelli dichiarati, sono quelli esistenti. E lì c'è, diciamo, il tema del nero. Chi ha il solo reddito da lavoro dipendente con reddito da lavoro medio-basso sta male. Allora, veniamo all'ultimo aspetto che vorrei trattare con lei, Presidente Bette, sulla ricerca che oggi avete, come ogni anno, presentato. Il rapporto con le banche. Allora, non è un mistero che in questo programma non abbiamo risparmiato critiche al mondo bancario in generale, nell'erogazione dei prestiti o non erogazione dei prestiti alle imprese più che alle famiglie, ma insomma voi avete analizzato il rapporto delle famiglie, degli italiani, del risparmiatore, del cliente, non dell'imprenditore. Allora, avete scoperto che uno su quattro ha cambiato l'intermediario finanziario rispetto a 2 anni fa, che possa essere il promotore o la banca. La fiducia nei confronti delle banche resta sostanzialmente invariata, 66%, e anzi c'è più fiducia nelle banche che nei consulenti familiari. Però, cioè, il fatto che io abbia più o meno la stessa fiducia di 2 anni fa rispetto alla banca, ma abbia cambiato banca, uno su quattro l'ha fatto negli ultimi 2 anni, come lo legge lei? Lo leggo come un doppio risultato positivo: il fatto che il 75% è soddisfatto del rapporto con la propria banca, significa sostanzialmente che la fiducia nel sistema bancario è rimasta forte, coesa, significativa, che vuol dire che questo è un valore positivo. Così come un valore positivo è il fatto che un cittadino su quattro che ha rapporti con le banche abbia cambiato negli ultimi 2 anni la banca, e ancora di più che il 66% di quelli che hanno fatto un mutuo prima di decidere hanno chiesto più mutui in termini di offerta, decidendo poi di sottoscriverlo con l'uno o con l'altro. Quindi evidentemente vuol dire che di quel 66%, 2/3 poi ha confermato il rapporto con la propria banca, 1/3 ha cambiato banca. Questo insieme di indicatori rappresentano la seconda verità positiva di questi ultimi 2 anni, cioè che la competizione nel sistema bancario è aumentata, che le offerte si sono differenziate, che quindi il cliente può scegliere tra una pluralità di opzioni, in alcuni casi confermando la fiducia alla propria banca e in altri andando a una nuova banca, ma comunque avendo fiducia nel sistema bancario. Grazie, grazie e buon Natale e buon anno al anche presidente della BNL Luigi Abete. Arrivederla, arrivederla. Adesso c'è il nostro GR, poi parliamo dello shopping. Che shopping? Coin che si compra Upim, in caso di dirlo, è già da tempo che diciamo che nonostante le difficoltà e la crisi, i grandi gruppi, è avvenuto in Inghilterra recentemente, adesso anche in Italia, ne approfittano per consolidarsi, per fare acquisizioni. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare soprattutto adesso dell'operazione con cui Coin ha acquisito il 100% di Upim, creando il leader nazionale nella grande distribuzione non alimentare, non food. Come si dice in gergo, l'aggiornamento dei mercati perde adesso l'1% l'America, sempre molto pesante il calo di Citigroup, oltre il 7%. Borse, lo dico chi si fosse appena messo in collegamento, oggi penalizzate soprattutto dai dati americani sui sussidi alla disoccupazione aumentati più delle attese. L'euro è a quota 1,4290 nei confronti del dollaro, da noi in evidenza Luxottica più 1,3% e poi in senso negativo invece tutte le banche meno 2%, Monte dei Paschi, Popolare, Mediolanum, Unicredit meno 1,80%, realizzi anche su A2A meno 2,70%. Ancora il petrolio, ci chiedete, a $71 il barile. E allora, come si diceva, non tanto perché Natale, ma perché la crisi e le difficoltà economiche hanno portato alcuni gruppi a approfittare di questo periodo e a fare il cosiddetto shopping. Eh sì, l'abbiamo visto fare in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Germania, in Giappone, adesso anche in Italia. Già ieri si era avuta una notizia, anche se non ufficiale, oggi è arrivata la formalizzazione dell'operazione. Nasce un leader nazionale della grande distribuzione che potrà contare su ricavi complessivi della fusione tra Coin, OVS e Upim, su 1.600.000.000 di ricavi, 1.000 punti vendita. Tra l'altro l'operazione è stata fatta, lo ricordo, con l'accordo di un consorzio formato da investitori associati Pirelli Re, Deutsche Bank e famiglia Borletti, che tra l'altro all'interno di questa operazione da perfezionare, comunque a cui verrà assegnato il 7,5% del capitale di Coin agli attuali azionisti di Upim. Gli obiettivi, le sinergie, come si chiamano in gergo, ma anche le eventuali criticità, ne parliamo allora. Lo ringrazio per essere in collegamento con l'amministratore delegato del gruppo Coin OVS, Stefano Beraldo. Buonasera. Buonasera. Dunque, il costo dell'operazione è quantificabile in quanto? Abbiamo chiarito qual è lo scambio azionario, il 7,5% del capitale di Coin va agli azionisti di Upim. L'operazione quanto vale? Ma prima di risponderle posso precisare qualcosa che ci mancherebbe. Ha riferito prima nella sua premessa. Allora, lei ha detto che nasce un grande gruppo della grande distribuzione o qualcosa del genere. Io rivendico un ruolo diverso. Io dico che nasce, anzi, si rafforza il leader italiano dell'abbigliamento. Cioè, noi non possiamo non far presente che con OVS Industry e in una certa misura anche all'interno di Coin noi vendiamo quasi 160 milioni di capi da noi prodotti, essendo con la nostra produzione e distribuzione il più grande, diciamo, retailer verticalmente integrato che c'è in Italia, nel senso che noi produciamo e vendiamo. Quindi grande distribuzione sì, ma fino a un certo punto, ecco, questo era quello che volevo... Beh, che sarebbe anche per il Made in Italy, per il tessile, un bel veicolo, un bel canale, perché spesso si dice che noi manchiamo della distribuzione, dei grandi canali distributivi. Noi produciamo e distribuiamo, quindi abbiamo due ruoli, quello certamente di distributore, quindi lei ha colto certamente il fatto dell'acquisto di Upim come un allargamento della nostra natura di distributore, ma in realtà all'interno dei nostri OVS e anche all'interno degli Upim, adesso magari ne parliamo un attimo, noi distribuiremo, venderemo i prodotti che facciamo, quindi non c'è nulla di diverso dai modelli di business di nostri concorrenti molto più importanti di noi nel mondo come Zara o H&M, che non chiamano, nessuno chiama grande distribuzione. Ecco, io rivendico per OVS lo stesso titolo, noi non siamo un grande distributore, siamo un produttore e distributore, quindi siamo un operatore nel mercato dell'abbigliamento a tutto tondo, avendo negozi propri oltre che di terzi, veniamo associati anche in sé impropriamente a volte a questo settore della grande distribuzione, ma in realtà noi non è che compriamo e vendiamo, noi sviluppiamo, ideiamo, disegniamo, realizziamo, controlliamo la qualità in stabilimenti che in generale non, che anzi che in assoluta totalità non sono di nostra proprietà, secondo un modello di business ormai molto diffuso, ma di cui siamo titolari di tutto lo sviluppo creativo e di controllo produttivo. Allora, questo per quello che riguarda, diciamo, il vostro ruolo, e va bene così, però il valore dell'operazione quanto vi costa? Perché se ho ben capito, voi volete anche ridurre l'indebitamento di Upim, Upim è un gruppo indebitato, lo volete ridurre di 52 milioni di euro, e tra l'altro il socio di riferimento Coin concederà al gruppo un finanziamento di 26 milioni e mezzo di euro, e poi alcuni manager sottoscriveranno un aumento di capitale riservato per 8 milioni e mezzo di euro. Vado anche a precisare il dettaglio finanziario dell'operazione: questo 7,5% del capitale di Coin che viene dato ai soci di Upim è vincolato al lock-up per 24 mesi, e poi il gruppo Coin potrà esercitare un'opzione di acquisto per la durata di 90 giorni ad un corrispettivo di 70 milioni di euro. Quanto vi costa l'operazione? Ma diciamo che l'operazione, vista in chiave finanziaria, è un'operazione in cui le variabili importanti sono queste. Upim prima dell'accordo aveva un certo livello di indebitamento che non era compatibile con alcun tipo di valutazione, quindi era un'azienda in grande difficoltà economica e finanziaria. La difficoltà finanziaria comportava che il livello di indebitamento non fosse sostenibile con la prosecuzione delle attività, quindi si è resa necessaria una trattativa molto complessa che è durata molto tempo, del dossier Coin si parla forse da più di un anno, con diversi soggetti, i precedenti proprietari, le banche che erano diventate i veri azionisti di Upim e noi come potenziale, più che acquirente, come potenziale soggetto interessato a subentrare nella gestione di attività che generavano perdite. Quindi nella realtà è stata un'operazione di scambio di attivi contro carta, e a fronte della quale è stato necessario per una parte dei creditori finora, cioè le banche, accettare che la soluzione migliore fosse convertire in capitale, quindi di fatto rinunciare circa 50 milioni di precedenti crediti. Quindi è stata un'operazione di ristrutturazione finanziaria precedente al nostro intervento. Il nostro intervento è stato subordinato a questa ristrutturazione, che ha comportato evidentemente una riduzione dell'indebitamento complessivo, che si colloca intorno ai 100 milioni a questo punto rispetto all'indebitamento precedente. Noi riceveremo in apporto una rete di negozi, 135 negozi diretti a marchio Upim, 15 a marchio Blue Kids, e una rete in franchising con oltre 200 negozi. Questa rete e il fatturato sviluppato da questa rete viene apportato. La dote di debito che l'azienda Upim aveva è stata decurtata di circa 50 milioni, 52 milioni che citava, e contro questo nuovo soggetto da un punto di vista finanziario, perché è un soggetto depurato di questa esposizione di 52 milioni, abbiamo ritenuto di emettere, di concordare, non ancora di emettere, ma verranno emesse, di concordare come corrispettivo per questa azienda, così come l'ho descritta, depurata di questa montare di debiti, il 7,5 del nostro capitale. Questo per quello che riguarda appunto il dimezzamento di fatto del debito che aveva il gruppo UPIM. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stiamo parlando con l'amministratore delegato del gruppo Coin OVS Stefano Beraldo dell'operazione che ha portato a comprare UPIM. Allora, veniamo alla parte, cioè una parte finanziaria l'abbiamo chiarita, alla parte diciamo industriale. Qui si mettono assieme i 533 negozi del gruppo Coin, inclusi anche i 450 in segno OVS, con i 135 negozi UPIM, poi ne ha altri 15 a marchio Blue Kids e 200 più piccoli in franchising. Io ricordo, insomma, qui stiamo parlando di due gruppi storici nella grande distribuzione. Vittorio Coin fondò a Venezia nel 1926, se non ricordo male, il primo negozio che vendeva tessuti, mentre UPIM, che sta per l'acronimo è per ultimo prezzo a Milano, aprì addirittura il primo negozio, così non so come si chiamasse allora, ma insomma il primo esempio di grande distribuzione nel negozio che tuttora esiste a Verona nel 1928. Quindi due marchi storici che hanno segnato anche la storia della grande distribuzione in questo paese. La fusione che cosa prevederà operativamente? È molto semplice, gran parte dei negozi verranno convertiti in OVS Industry. OVS? In OVS Industry, che è il nostro marchio di punta, quello che sta avendo più successo, che genera la maggior parte del nostro fatturato e della nostra redditività, che è in forte crescita da anni ormai. Un'altra parte non trascurabile di negozi, importante per noi, data anche la numerica minore di Coin, verrà convertita in Coin. E una parte residua di negozi prenderà una destinazione diversa, che dipenderà dalla voglia, dalla creatività, dalle idee che verranno a noi e a un sacco di soggetti che si sono un po' agganciati alla nostra diligenza in questi anni, che sono personaggi del mondo della moda, del mondo della bellezza, e che vedono in noi un'opportunità di crescita per i loro formati. Quindi questa parte di negozi è minoritaria, ma ce ne sarà alcuno, potranno esserci anche alcuni di cui saranno cedute le licenze, ma sono proprio marginali. Evidentemente ci sarà anche qualche, e tutta questa operazione, tranne eccezioni, non dovrebbe comportare problematiche, come dire, di esuberi rilevanti di qualche genere, compresa quella che lei ha citato. Ci saranno evidentemente delle situazioni specifiche. Certamente però tutti dovranno pensare che questa operazione è un'operazione in cui una società malata è in corso di guarigione, in corso di acquisizione. L'acquisizione si perfezionerà con certe operazioni. Il comunicato stampa che abbiamo diffuso esplicita che ci sono alcune condizioni che devono intercorrere prima che l'acquisizione si possa considerare completata. Qui ci sono delle banche che hanno fatto una grande rinuncia a una parte dei loro crediti, convertendoli in capitale. Qui ci sono sicuramente alcune azioni che dovranno essere fatte. Mi scusi, dottor Beraldo, siccome vedo molti messaggi, possiamo ripetere il passaggio sul il marchio UPIM? Che cosa verrà al marchio UPIM? Cioè ai negozi, abbiamo capito che buona parte di questi negozi saranno convertiti in marchio OVS, no? La maggior parte dei negozi a marchio UPIM verrà convertita in altri formati del gruppo. Rimarranno comunque in essere dei negozi a marchio UPIM, rimarranno in essere tutti i negozi in franchising a marchio UPIM, questo è un business molto importante, quindi di fatto da un punto di vista industriale ci sarà una trasformazione di una parte dei punti vendita in formati che attualmente sono formati di successo, che realizzano molte più vendite al metro quadrato di quelle realizzate all'interno della catena UPIM e che consentiranno alle nostre due insegne di punta, OVS e Coin, di crescere ulteriormente acquisendo eccellenti ubicazioni, perché la rete di UPIM è una rete di qualità eccellente. Allora, ho ancora due domande, chiederei delle risposte molto, molto brevi. Esuberi, perché ce lo chiedono. Allora, sappiamo tutti che quando si fondono due gruppi alcune posizioni, soprattutto a livello dirigenziale, risultano dei doppioni, ma a livello proprio di numeri grossi voi immaginate anche una riduzione dei dipendenti, sì o no? Guardi, è ancora tutto da definire, quindi che poi non lo verrei a dire a lei in questa intervista, anche se lo avessi già deciso. Quindi è un'ipotesi, ma diciamo non ce lo può dire. Seconda domanda, per quello che riguarda le... ogni tanto abbiamo... così, produttori che sono fornitori della grande distribuzione che lamentano nel settore alimentare, ma non solo, anche nel settore abbigliamento, cioè non food, una pressione in questi mesi, in questo anno di difficoltà che arriva dalla grande distribuzione, che obbliga a prezzi e a margini sempre più bassi i fornitori. Le chiedo, a questo punto, se diventate il leader, Coin, OVS, Upim, devono temere ancora di più i fornitori quanto a forza? Se i fornitori sono di marca, purtroppo noi non abbiamo nessuna forza, e quindi Coin, che è la nostra insegna, che è votata a comprare anche prodotti altrui, già realizzati, già prodotto finito, se i fornitori sono di marca e sono marche italiane come Armani, come Versace, come Hugo Boss, come molte altre che abbiamo, il tema non si pone, cioè i prezzi li fanno loro. Noi seguiamo la loro politica di prezzi, i margini li fanno loro, purtroppo è vero il contrario, con la difficoltà che sta avendo il settore dei consumi di abbigliamento italiani, finisce che la grande distribuzione o piccola, qui sono unite dalla stessa logica, si trovano spesso a fare i conti con eccessi di stock invenduto a fine anno, e quindi semmai c'è un problema opposto, quello di una pressione eccessiva sul capitale circolante derivante dal fatto che ci si trova prima dei saldi con troppa merce, e con questa ormai abitudine degli italiani a comprare in saldo finisce che poi gli oneri della vendita di questa merce rimasta rimangono al distributore. Quindi ritengo che il tema sia un tema di filiera che riguarda i comportamenti di entrambi, i fornitori, i produttori di marca e noi, che richiedono nuove modalità, che sono quelle che noi stiamo adottando sempre di più in Coin, laddove il prezzo lo fa il fornitore, ma addirittura la vendita la fa il fornitore, perché noi stiamo invertendo le sorti di Coin, introducendo sempre di più la concession come criterio principale che regola le disposizioni contrattuali tra i nostri fornitori e noi. Quindi c'è uno spazio, c'è un prodotto, decide il fornitore a che prodotto venderlo, quello è il suo prodotto, quello è il suo spazio, e si condividono rischi e opportunità. Mentre per quanto riguarda l'80% del nostro venduto, che è relativo a prodotti che facciamo noi, la domanda che lei pone, semmai si riferisce a quei produttori di semilavorato o di prodotto finito, sì, che mettendo insieme un tessuto, una fashion, producono una maglia, una camicia, un pantalone, che sarebbero sotto pressione. Allora, loro sono sotto pressione da sempre, purtroppo, e a metterli sotto pressione è la povertà dei consumi che attanaglia l'Europa, purtroppo, e che costringe chiunque opera nel settore dell'abbigliamento a ricercare, se non ha saputo sviluppare una produzione di alta gamma, di marca importante, dove i valori del brand, del design, dello stile proteggono anche, rendono magari meno importante comprare sempre al meglio, non può che confrontarsi con i bisogni di un cliente che corre da un brand all'altro cercando sempre il miglior prodotto, il miglior stile al miglior prezzo. Quindi non facciamo altro che fare la pressione che dobbiamo fare per sopravvivere. Allora, in bocca al lupo comunque, perché insomma nasce veramente il leader italiano della grande distribuzione non food. A chi scrive dico attenzione, perché poi non ci si può lamentare che in Italia manchino i canali per promuovere il Made in Italy quanto a abbigliamento oppure settore alimentare. Ieri ne discutevamo in termini di turismo, mancano dei grandi soggetti, e poi quando si creano i soggetti lamentarsi dei timori. Certo che timori ci possono essere, sappiamo tutti quali sono i rischi presenti in qualunque fusione di due grandi marchi. In bocca al lupo comunque, a questo punto anche buon Natale e buon anno a tutti i dipendenti. Grazie. Del gruppo Coin, OVS e Upim. Grazie all'amministratore delegato Stefano Beraldo. Grazie, arrivederci a voi. E siamo veramente in chiusura. Vedo che alcuni contestano l'acronimo di Upim. A noi risulta unico prezzo Italia Milano, poi vediamo se ve ne saranno altri. Coin non è un acronimo di niente, è il cognome di Vittorio Coin, il fondatore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi.